24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Penso che la distinzione tra noi due sia soprattutto di carattere, cioè abbiamo caratteri molto diversi, e poi anche di estrazione. Lui è un artista, io alla fine ho fatto nella mia vita soprattutto il manager, direttore di azienda, quindi sono due culture molto diverse. Ragazzi, anche la voce di Gianroberto Casaleggio, che per la prima volta va in TV, e di quelle che non invoglia al lunedì, Non è di quelle che dà ritmo, che dà... che dici, è lunedì, iniziamo con una bella voce di Casaleggio che... Gianroberto Casaleggio era da Lucia Annunziata, mentre oggi c'è il ritorno di Beppe Grillo in TV dopo quanti secoli, non lo so. Andrà da Bruno Vespa Porta a Porta e pare porterà un plastico di Castello, perché questo ha un significato politico che svelerà questa sera. Va bene, cari italiani, si apre oggi la 55esima settimana decisiva per la riforma elettorale, per l'abolizione delle province, in un giorno in cui io lo dichiaro alle 6:34 minuti, oggi tra leggere i giornali e una martellata sui coglioni preferisco la seconda, perché sono una roba pietosa, pietosa. Ma saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Apriamo il Parlamento, forza! Pietosa, pietosa! Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento, pietosa! Voglio intanto salutare Marione Adinolfi. Buongiorno Marione. A lei buongiorno, una voce che dà ritmo. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ti piace siamo questo ritmo? Mi piace. Cos'è che ti ha messo? L'inno della Juve, ma... L'inno della Juve, vi voglio bene. Che schifo l'inno, peraltro. Chi è che canta? Pupo, no? Vi voglio bene. Chi è che canta? Chi è sto sfigato che canta? Ma chi è? Lo stesso di Amala, credo. Sì, lo stesso di Amala. Si è riciclato da Amala a... Ma cos'è? Ma chi è? Mamma mia. Fai il coro, Milan, fai il coro. Ma non la conosco, ma la canterei questo bro. Dai. Canta tu. Juve, storia di un grande amore. Vabbè, Vincino era quasi peggio dell'inno nazionale cantato in Parlamento. Te lo ricordi, Vincino, buongiorno. Infatti è così lui. Ma te lo ricordi. Disastro. No, oggi il vero disastro sono i giornali. Vincino, guarda, oggi non so che morbo della mucca pazza abbia preso i capi redattori della Stampa, ma ti leggo alcuni titoli di prima pagina della Stampa. Allora, intanto c'è un richiamo in prima con un'intera pagina di Mattia Feltri che racconta il rapporto tra lui, la moglie Annalena e l'IKEA. No. L'IKEA, sì, giuro, no. giuro. Poi c'è una pagina intera su il primo passo per la carriera, arrivare presto al mattino, e io qua sono coperto. Come? Poi c'è un'intera pagina, il futuro è nel bell'essere, il mix di salute e serenità, giuro. E poi basta, no, direi che basta, vabbè. Una... C'è signorini con chi, no? Sì, c'è il dibattito della chirurgia plastica. Le donne, Veronica, Signorini, Berlusconi, insomma. Che invecchia malissimo Signorini, diciamo. Esatto. Comunque questa è la campagna elettorale che piace a Mario Adinolfi, eh? Bella. È bella la campagna elettorale. Dovete ammettere che è bella. I giornali che si svuotano i contenuti, i titoli li fanno col sorteggione, è bellissimo. Che non c'è più la notizia, che titoli, i servizi del TG1 G1 è l'ultimo mese, quindi di fine di G1 fa il sorteggio per dire poi l'argomento. L'Ikea è uscito per la stampa. È bellissimo, sì sì, infatti i titoli di oggi sono Buffone, Hitler, sono oltre Hitler, Pol Pot. No, quella è roba vecchia, non sei aggiornato, non è roba oggi viviamo tutti sull'attesa di Grillo da Porta. Ho capito, ma sui giornali sui giornali è quello, non votate i buffoni, notizie di ieri. Cioè. Non votate i buffoni. Non votate i buffoni. Chi sono buffoni ad Adinolfi, quelli del 5 Stelle? No, prenderanno una valanga di voti e dobbiamo sapere perché se no, l'ho sempre spiegato anche a Matteo questa cosa, perché lui ha l'ossessione del 5 Stelle, pur essendo la faccia della stessa medaglia, cioè Renzi sa che senza Grillo non sarebbe a Palazzo Chigi, cioè, Renzi arriva a Palazzo Chigi perché Grillo un anno fa quel risultato clamoroso e gli blocca Bersani, altrimenti Renzi sta facendo la campagna come sindaco di Firenze. Ah beh, chiaro, quindi, chiaro. Cioè, perché lui deve Bersani tutto. È un deficiente, diciamo. No, Bersani ha sbagliato tutto, è chiaro che se no Grillo non avrebbe fatto, se invece di Bersani ci fosse stato Renzi l'anno scorso, Grillo sarebbe rimasto sotto il 15%, perfettamente ragione. Ma Vincino, ma sono buffoni, Vincino? Si può dire buffoni? No, Grillo è molto peggio di un buffone la cosa. Difatti, finito Stalin hanno messo Casaleggio per sussurrare. No, perché dice, non è vero, non siamo solo staniti, perché la gente era terrorizzata, già era sceso di 30 punti con Hitler e Stalin, come dire, è una cosa che, come dire, cioè, sono gli incubi dell'Europa, no? Tu ti presenti il nuovo con gli incubi dell'Europa, vaffanculo. Io l'ho sfidato a duello. L'hai sfidato a duello? In quanto comico e autore di satira, e quindi sono... che ha la stessa età sua praticamente, mentre lui faceva il Pippo Baudo e stava tra i Pippi Baudo e noi del male, noi consideriamo i Pippi Baudo la peggiore categoria. Sì, Saviane proprio li disprezzava, tutti quelli... Ma l'hai sfidato a duello, proprio... ma che vuol dire? Cioè, ma pubblicamente l'hai sfidato a duello? Pubblicamente, se vai a vedere sul... non ci ho messo chiocciolalino perché non mi mancava, tra le parole non mi veniva... Non l'hai visto, però se non l'ho visto, vedere, ma ti ha risposto. Ma un quarto d'ora fa l'ho fatto. Attenzione. Per voi. Poi ho saputo che veniva di Adinolfi, ho detto vabbè, non diamoci tanta importanza, scontiamoci con Adinolfi, ma intanto stasera che succederà, Marione? Secondo te Beppe Grillo con cosa se ne uscirà da Bruno Vespa? Beh, di momento ce lo guardiamo, no? Solo fatto che siamo qui a parlare da 15 giorni di una puntata di Porta a Porta mi sembra qualcosa di surreale. Sì, abbastanza. Perché vuol dire che... Non credo ci lascerà indifferenti, infatti, per cui domani ti farai una bella puntata e potrei parlare solo della puntata di Porta a Porta. Esatto. E oggi facciamo l'anteprima della Porta a Porta. Andrà a dire, mi pare questa una stupidaggine totale. Insomma, diciamo. Il vero è vero. Mi pare una stupidaggine totale. Perché? A me della puntata di Vespa di Corso non è che me ne freghi tanto di più, come a maggioranza di... adesso non esagerare. Culturalmente, letteralmente, cos'è una puntata di Vespa? Niente, nulla. Ho capito, ma nel nulla italiano, almeno voglio dire. Io sto leggendo France, il progetto Kraus. Ma lo Vincino, prendi il tram con me stamattina e portagli Kraus, ma chi gli frega? Voglio vedere qui la Porta a Porta. Effettivamente Europa mitteleuropea dell'Europa roba per gente acculturata, ma tu l'hai sentito la segreteria telefonica di Milano, sono ridotto male. No, leggono sicuramente Kraus dopo, guarda, avremo sicuramente una sinossi dell'ultimo di Kraus. Va bene, allora sentite Renzi sul Movimento 5 Stelle è sicuro di questo? Potrei dirle da segretario del PD che i 5 Stelle stanno facendo meno piazza dello scorso anno e con meno gente, e le aggiungo, prenderanno meno voti, questa, vabbè, insomma, questo l'ha detto Renzi. Cos'è quella dei buffoni? Sentiamolo, com'è non mandate i buffoni in Europa? Non mandare i buffoni in Europa. Il 25 maggio si vota per delle persone, lei, però io lo dico, votate per chi vi pare, ma non mandate dei buffoni, questo potete scegliere, quindi non mandate le buffoni, era da Massimo Giletti, è un altro juventino. Pensava come te. Pitella, che ne so, a chi pensava? Non lo so. Vabbè, comunque, non mandate buffoni, caro Adinolfi, questa è la linea. Vabbè, ma adesso, perché tu devi un po' provocare, io non ci credo che ti piace questa campagna elettorale. Ma le campagne, cioè, sono tutte così, arriviamo all'ultima settimana in cui c'è il mantra quanto è brutta questa campagna elettorale. Ma no, elettorale. Ma non è questa, sempre, no, io lo dico dal primo giorno, cioè, ma non è che... Ma le campagne, cioè, sono così. Sì, ma non è che si debbano escludere colpi o insulti, ci sta tutto, questo non è che bisogna fare le verginelle, ma ho capito, ma sì, ma appassionante, cioè, che perché comunque la maggioranza ma sì, no, ma perché uno dice Hitler e l'altro Robespierre e Pol Pot, questo ti emoziona, cioè questo è... No, mi piace quando scorre un po' di sangue, perché vuol dire che la politica ha ancora un senso, perché sennò non staremmo qui a discuterne, perché altrimenti non si direbbero quelle cose, altrimenti non ci sarebbero gli indici d'ascolto, altrimenti non ci sarebbe la maggioranza assoluta degli italiani che va a votare, e questa è un'altra cosa che succede solo da noi, e in Inghilterra, dove se ne fregano veramente, no, come dice Vincino, che poi va a votare pure lui, Vincino, lì non vanno a votare, il 75% degli inglesi non va a votare all'europeo, perché non gliene frega proprio niente. Noi siamo un popolo dove tra il campionato di calcio, che purtroppo è finito, e le elezioni spendiamo le nostre chiacchiere da bar o anche quelle ma altre. Vincino, vorrei capire, ma Vincino, io non posso dirlo perché io sono il conduttore, c'è la par condicio. Vincino chi vota? No, Kraus? Non c'è, il mio candidato non c'è. Non c'è. Dopo Conventì, fatto, Daniel Conventì, che è, come dire, il mio libro, libro di politica. Ha fatto il ministro, ha fatto già tutto. Ha fatto già... Conventì in Europa non ha fatto il ministro, ha sempre stato all'opposizione, è stato un eroico oppositore, capo dei Verdi. Non ha mica fatto il ministro. No, Francia. Ma che c'entra? No, ma dico in Europa, là, lui è deputato europeo, ma non mi ricordo manco che abbia fatto il ministro in Francia. Vabbè, quindi non forse ha fatto di polizia, Adinolfi lo sa. Non ha mica fatto il ministro della cultura. Ha fatto il ministro in Francia. Allora dai, ha già dato. Ed è vecchio, diciamo la verità. Insomma, sti rottami dell'età di Vincino. Ma basta, insomma, cioè, prendiamo qualche ragazzotto sveglio, lo potete scegliere tra tanti. Non so se avete notato, questa è un'altra caratteristica di questa campagna elettorale. Gli candidati sono prevalentemente quelli di punta, sono giovani, da Renzi, Salvini. I ragazzi del 5 Stelle, cioè, era bella cosa anche quella. Ma a proposito di Renzi, perché io so che Vincino l'ha ascoltato, tu l'hai ascoltato venerdì qui, sì. Che voto gli dai? Che voto gli dai? 2. Sì, più o meno, diciamo, un altro disastro pure lui. Figurarsi, no. Ma sì, no, perché poi, come dire, cioè, col film distrutto e cosa, non è che... Ho capito, distrutto. Devo dire anche un'altra cosa, lui c'è il gioco, però sono uno peggio dell'altro, i giovani del PD e i giovani dei 5 Stelle, Di Maio, un deficiente totale che ci troviamo là, peggio di peggio, la Nutella, la Nardella, un altro terribile, tutti, guarda, non è che questa incapacità totale di prima i giovani venivano fuori dall'assemblea, dalle salvi oggi vengono uno. Da nulla, vengono scelti da questi qua, il Grillo c'è, ma chi salvi tu? Conventì? Ma dai, su, chi è che salvi? No, non salvo Conventì, così mi piaceva, allora chi salvi in Italia? Perché c'è, e quello è un deficiente, quello è un cretino. Il mio partito, il Partito Radicale, non si presenta, per cui Partito non Radicale, va bene, non vogliamo fare. Allora questo Rita, però Rita Bernardini che nelle carceri e tutti l'applaudono perché è l'unica che va dentro le carceri. Ecco, però non si candida, è peccato. Allora il traffico, e poi c'è il grande ritorno, la segreteria telefonica più apprezzata d'Italia. 24 mattino. I grillini dovrebbero fare cose serie che non vogliono finire in bocca agli uccelli. Volevo solo dirti che a proposito dell'Expo, io non mi stupisco delle persone che non sono oneste, mi stupisco di quelli che sono addetti ai controlli. Io vorrei vedere chi è il capo che dovrà controllare e perché non viene mai citato e preso per le orecchie. Buongiorno, io sono Gianfranco, faccio fatica a parlare con questa segreteria perché sono interista, la segreteria dei Milan. E vabbè, passata questa battutaccia, voglio dire che comunque si stanno riciclando ancora le vecchie guardie. Ci vuole il nuovo. Solo io credo che in questo momento esclusivamente il 5 Stelle possa fare qualcosa per la nostra Italia. Ragazzi, ma sentir parlare Berlusconi, di Hitler, di Robespierre, ma dai Silvio, ma facci il piacere. Ciao Milan, vedo la luce in bondatone, vedo la luce in bondatone. Ehi, che cazzo, proprio molla sto tetto. A Milan, e basta questo buonismo. Uno non può neanche gioire se i politici corrotti hanno in galera. Siamo alla fame, altro che forcone. La corruzione in Italia ci sta portando alla fame. Ciao. Eccoci qua Mariona di Nolfi. Ma quale fame? Ma magari ce l'avessero sta fame, capito? Non ce l'hanno, quello è il problema, non ce l'hanno. Non ce l'avessero. Ma tu oggi di che parli che il campionato di calcio è finito? Parlo della fine del campionato di calcio, mamma come mia, lo sai, diciamo, che tristezza. Ha avuto un'evoluzione, un finale tristezza, di quelle cose tristezza. Belle perché non possono essere battute. È bello fare un record che non puoi battere. Oh, che bella soddisfazione. Una cosa che è sportiva nella storia, non dirà mai. No, non può essere battuto, perché Adinolfi è così, ha l'arroganza del potere di quelli che dicono. No. 102, quanto è 102? 102, sì. Sì. Ma no, ma 19 su 19, quello proprio non lo puoi fare, non lo puoi battere, cioè 19 che vuol dire? Ce l'avete vinte tutte in casa? Tutte le partite in casa le hai vinte? Tutte. Bravi. Ah, appena adesso è passato il gol di Pirlo, ha segnato anche ieri. Grazie amore, bianco che abbraccia il nero. Dicono che l'autore sia Paolo Belli. Paolo Belli, così mi dice Miriam Lucchetti. Non lo so. Ah, non la sapevi questa, eh? No, non sapevo che la traccia fosse. Non è lui che canta, mi pare. Però. Non è lui che canta. L'autore forse dei testi. Questo non lo so. Forse addirittura è lui quel pazzo che canta. Non lo so. Proporrò una cover prima o poi. Proporrò una cover, esatto, fatta così. Senti un po', Vincino, però hai sentito che Berlusconi ha chiesto scusa ai tedeschi? Questo mi ha colpito, eh? Un'intervista a un giornale tedesco, ha detto forse vi siete offesi, forse ho esagerato. È un giornale tedesco però, eh? Chiaro. Lui è sempre, si adagia a quello che ha da fare, insomma, si configura, sì. No, come l'annunziata, no, praticamente. No? Cosa c'entra l'annunziata? L'annunziata come era dolce con Casaleggio, protettiva, cosa, no? Cioè, ma le pensa, ma le cose, quello sì, ma era una cosa, guardi, che uno che la conosceva da tempo era, no? E perché secondo te? Ma perché è del perché si stanno adeguando tutti i grandi giornalisti e cose, non sanno da che parte, da che area tira, allora vanno là, si preparano, no? Come si, dire, si no? Preparano a che? Cioè, si reggimentano prima, si mettono prima in fila, così quando poi aprono le nuove botteghe loro sono là. Questa è forte, Adinolfi, è la non siate che si reggimento. Perché la mese e mezzo di cinema è così arrabbiato? A me sono piaciute sia l'intervista di Giletti Arresti che quello dell'annunziata a Casaleggio. Devo dire che non ho trovato, perché si lamenta di una brutta campagna elettorale, una bella intervista, diciamo, non urlata, non... Ma non è tanto brutta la campagna, non è questo. Qual è la cosa che non va bene? Non lo so. Aspetta, la campagna elettorale non è, il problema è questo, è che è fuori, cioè noi stiamo parlando della campagna elettorale europea. No, delle quali io metà delle volte non sono andato a votare, che non è mai fatto niente, dove veniva eletto Santoro, arrivava là e diceva scusate, qual è il primo aereo per l'Italia e ritornava subito, no? Cioè era così insignificante. Stavolta non c'è Santoro, stanno quelli che ci vanno in Europa, okay. Qual è il problema? Vai a votare. Ma non fa niente come comandavano quelli là prima, no, cioè vanno un po' a Bruxelles, un po' a Strasburgo a fare i cretini là. Vabbè, sei confuso, vicino. Perché non vanno un po' a Strasburgo e un po' a Bruxelles, o no? A fare i cretini. Per vent'anni vive in un doppio parlamento, è un pazzo.

7 articoli che vincono. Intanto vi segnalo, se volete, anche se la situazione è molto molto in fieri, 2 articoli sulla Libia, uno Giampaolo Catalano su Repubblica, Libia nel caos, attacco al Parlamento, e soprattutto il Secolo XIX fa pagina 2-3 su anche un profilo di chi è l'ex generale Khalifa Belkacem Haftar, che è colui che piace agli Stati Uniti, scrive il Secolo, e in questo momento sta, dopo aver lavorato per formare un nuovo esercito, a capo di 200 soldati, è considerato l'uomo giusto per ripulire, usando questa frase dura, il paese dai fondamentalisti, è colui che sta combattendo, ma anche mettendo un po' a soqquadro la Libia. E poi, che dire, insomma, leggete alcune pagine, non so, La Stampa, una pagina sul primo passo per la carriera, arrivare presto al mattino. E vabbè, e io e Miriam Lucchetti e Peter Bescapè abbiamo una carriera assicurata. Sempre La Stampa, il futuro è nel bell'essere, il mix di salute e serenità. Una pagina. Il Giornale, dall'ira al cuore spezzato, nel corpo la mappa emotiva. Studio finlandese su l'ansia prende il petto, la sorpresa pure, la tristezza le braccia, la felicità tutto il corpo, il disgusto lo stomaco, così. Ecco, un'intera pagina. Ma vince l'articolo più inutile scovato sui giornali, sempre sulla Stampa in prima pagina, Mattia Feltri, che dedica una pagina intera a Io e Annalena, a dividerci è soltanto l'IKEA. Una pagina di Mattia Feltri, la moglie e il rapporto con l'IKEA. Eh sì. Era un sabato mattina e il tempo era bellissimo, pioveva, gite fuori porta impossibili, pregustavo una giornata complementare al divano con giornali, libri e soprattutto Sassuolo Torino. E tu sei arrivata, Annalena, col sorriso infinito per cui ti ho sposata, e mi ha detto: amore, andiamo all'IKEA? E inizia una pagina così. Ma andiamo al giornale radio. 24 mattino. Alle 8:18 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, che bella campagna elettorale, nella quale si parla di argomenti, contenuti. Nelle ultime 48 ore, gufi, buffoni, sei come Hitler, sei come Pol Pot, sei peggio di Robespierre, Ebetino, sanguisuga, gnocco fritto, no? Alcuni degli scambi, degli epiteti dell'ultima settimana, e ne vedremo delle belle negli ultimi 5 giorni di campagna elettorale. Pensate che oggi il Quotidiano Nazionale addirittura dedica l'apertura a questo, al livello della campagna elettorale, con tanto di intervista al re degli insulti, Vittorio Sgarbi, che con orgoglio dice: ho iniziato io a insultare in TV. Bene, bravi, applausi. Invece qui parliamo un pochino di contenuti magari economici. Oggi due economisti, Alesina e Giavazzi, scrivono un editoriale sul Corriere della Sera nel quale praticamente dicono, insomma, caro Renzi, non si cresce di sole promesse, finora tanti annunci ma poche promesse mantenute sulla riforma della pubblica amministrazione, sulle ricette economiche. E allora, quale ricette economiche, quali shock economici vorreste, cari ascoltatori? 800 24 00 24, qual è la priorità secondo voi? Per esempio potrebbe essere quello che in Svizzera hanno provato a mettere ieri col referendum, ma è stato bocciato, e cioè garantire a tutti uno stipendio minimo di 4.000 franchi circa, cioè 3.200 euro. La proposta è stata però bocciata, e partiamo da qui, e quindi voglio salutare Sergio Savoia, che è un deputato cantonale al Gran Consiglio per i Verdi. Buongiorno Savoia. Buongiorno. Poi parleremo di quello che succede in Italia, lo faremo con due candidati alle europee, Michele Boldrini, che è capolista di Scelta Europea al Nord-Est. Buongiorno Boldrini, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Così come saluto Giovanni Alleva, che invece è candidato alla lista Tsipras nel Nord-Est, è un giuslavorista. Buongiorno Alleva. Ecco. Buongiorno a voi. Allora, intanto partiamo dalla Svizzera. Savoia, lei è uno di quelli che aveva promosso questo referendum, cioè appoggiava questo referendum. Perché non è passato? Perché è stato bocciato anche con una cifra abbastanza elevata, mi sembra di poter dire. Sì, ci sono sicuramente vari motivi. Intanto va detto che la cifra di 4.000 franchi è una cifra in fondo sbagliata, perché il referendum, anzi l'iniziativa sarebbe più corretto parlare, definirla, propone un salario orario di 22 franchi all'ora, che fa uno stipendio su 13 mensilità di 3.600 franchi, che è sempre molto alto per quel che riguarda specialmente il confronto con i paesi vicini e con l'Italia, ma non è particolarmente alto invece per quello che riguarda il costo della vita in Svizzera. Calcolate che noi soltanto di assicurazione sanitaria privata spendiamo circa 1.000 franchi al mese per una famiglia di 4 persone, quindi grosso modo 800 euro. Sì. E che una pizza margherita da noi costa 12-13 franchi, quindi più di 10 euro nei casi migliori. No, ma è chiaro, infatti quando oggi il Corriere della Sera scrive, parlando di questo referendum, che in realtà il 90% dei dipendenti svizzeri già hanno una paga superiore a questi 4.000 franchi, corrisponde al vero? È vero, sì. A livello svizzero, grosso modo, il 9% sarebbe stato interessato da questa misura, nel senso che era al di sotto di questa, però ci sono delle variazioni locali molto importanti. Per esempio nel Canton Ticino, dove abito io, è il 25% che si trova al di sotto di questa soglia, e qui c'è il primo elemento di debolezza. Questa proposta non distingueva tra i livelli regionali, quindi quello che va bene a Zurigo non va necessariamente bene nel Canton Ticino. La seconda differenza importante, la seconda debolezza importante, è che non distingueva tra settori economici, quindi si immagini l'agroalimentare e il settore bancario, per esempio. E la terza debolezza è che non distingueva nemmeno all'interno singoli settori fra livelli professionali. Insomma, per questo è stata bocciata, credo, dal 76,3% dei voti, no? Hanno stravinto. Sì, con differenze anche lì regionali importanti. Per esempio in Ticino ha preso qualche voto in più, a Ginevra anche. Generalmente ha preso più voti nelle regioni frontaliere, nelle regioni di confine, perché è una misura che permetterebbe di proteggere il mercato interno. Certo, dai lavoratori stranieri, soprattutto italiani. No, non proteggerla dai lavoratori, proteggerla dai datori di lavoro che usano i lavoratori stranieri, che nella Svizzera italiana sono italiani, ma a Ginevra sono francesi. Sì. Quindi voi la vedete sempre come un atto unilaterale nei confronti dei lavoratori italiani, ma in realtà non è così. Questa misura si sarebbe applicata, cioè questo stipendio sarebbe stato applicabile anche ai frontalieri. Quindi il nostro punto di vista è sempre stato: a lavoro uguale paga uguale, quindi non è che perché un lavoro lo fa un frontaliero deve essere pagato o meno. No, ma è chiaro, ma quello che io dicevo, almeno come lettura politica vedata dai giornali, è che appunto è stato vinto il no anche per evitare proprio questo, cioè che venisse parificato anche il lavoro, lo stipendio dei frontalieri. Questo è il senso. Io vorrei capire, per esempio, Giovanni Alleva, lei sarebbe favorevole a un salario minimo garantito anche in Italia, che ricordiamo non è il reddito minimo garantito, cioè un sussidio pubblico, ma il salario, la paga base, cioè si stabilisce per legge che la paga base è un tot, cosa che in Italia non c'è. Bene fare questa distinzione, sono cose completamente diverse. Certo. Il reddito minimo garantito riguarda chi lavora. Certo. Il reddito di cittadinanza così riguarda chi non lavora, due problemi completamente diversi. Sul primo io sono tendenzialmente contrario, lo sono sempre stato, per questo motivo: il salario minimo garantito tende a eliminare la contrattazione nazionale. Ce lo abbiamo già il salario minimo garantito, ce lo abbiamo già. Da che cosa è dato? È dato dai minimi contrattuali collettivi che vengono applicati ai lavoratori iscritti ai sindacati, naturalmente, ma attenzione, attraverso l'articolo 36 della Costituzione devono poi essere applicati a tutti. Questa è una cosa che non si dice mai. Quando gli economisti italiani magari discettano su questa cosa, ignorano un dato fondamentale che invece ciascun giuslavorista conosce. Il datore di lavoro, il quale paghi, che so, 600 euro al lavoratore, diciamo, gli dà un sottosalario, ma quello è in ogni momento citabile in giudizio, perché la retribuzione con gli arretrati sia portata al livello previsto dai contratti. Comunque lei dice è contrario a un salario, perché si sminerebbe un po' la potenza della contrattazione collettiva nazionale. Io sono dell'idea che lo scopo fondamentalmente sia questo. Signori, guardiamoli un po' i contratti, i salari minimi, dove ci sono? sono intorno agli 8 euro lordi. Sì. 8 euro lordi, togliamo pure un 30%, i tasse e altre cose, siamo poco più di 6 euro all'incirca. Moltiplicatelo per 156, che sono le ore che ci sono in un mese, vedete che siamo sotto i 1000 euro. Io ritengo che sia questo lo scopo recondito di chi parla di un salario minimo. Cioè abbassare ulteriormente i salari. Sì. Oddio, diciamo una cosa, ovviamente tutta questione, è tutta questione di quantità, perché c'è anche una corrente, chiamiamola di sinistra, per così dire, sì, la quale invece dice la debolezza della contrattazione collettiva, indiscutibile, dipendente da tanti fatti, ma insomma fondamentalmente dalla debolezza sindacale o da un'indisponibilità delle controparti, eccetera, ha portato i livelli salariali previsti dalla contrattazione collettiva, quelli che, come dico, vengono estesi senza problemi attraverso l'articolo 36 della Costituzione, praticamente a essere essi stessi troppo bassi. Sì. Quindi dovremmo avere un reddito minimo garantito superiore a quello che è previsto nei, sì, contratti collettivi. Teoricamente è possibile, teoricamente. È possibile. Però concretamente non mi sembra. Il nostro problema vero è quello di riconoscere una volta per tutte che i salari contrattuali, il contratto collettivo categoriale, sì, che quindi riesce a cogliere anche la ricchezza delle singole categorie, abbiano efficacia per tutti gli, sì, appartenenti a quella categoria. E poi bisogna capire anche se sono troppo bassi e per quale motivo. Però vorrei capire da Michele Boldrin, che è un economista, ripeto, scelta europea nord-est, e vive anche spesso negli Stati Uniti, dove il salario minimo c'è, e mi risulta Obama di recente voleva anche aumentarlo, no Boldrin? Sì, sì, esiste il salario minimo a livello statale, poi ce n'è uno federale, il dibattito è molto ampio sulla questione, per quanto è relativamente basso, da molti moltissimi anni non si cambia e quindi non ha un grande effetto sull'economia reale, grazie a Dio, perché purtroppo, al contrario di quanto sento dire, che sembra ignorare come si creano i posti di lavoro, i salari minimi garantiti tendono a essere in principio dannosi, poi se sono bassi in maniera tale da essere irrilevanti, grazie a Dio i lavoratori, le imprese eccetera fanno le cose in maniera adeguata, ma quando sono alti o eccessivamente alti per tutti, come nel caso appunto dei salari decisi dai contratti collettivi nazionali di categoria, creano i danni, alcuni dei quali li vediamo, no? Cioè sono troppo alti, lei dice in realtà. Ma guardi, il problema non è se sono troppo alti o bassi in generale, il problema è vero è il seguente, che all'interno di ogni settore economico, dal turismo, alberghiero, che so, al metalmeccanico, al tessile, vi sono imprese di tipo, dimensione, produttività diverse, ovviamente. Non tutti sono bravi nella stessa maniera, non tutti fanno lo stesso prodotto, non tutti hanno la stessa efficacia. E allora, poiché i posti di lavoro si mantengano e si creano solo quando si riesce a mantenere i costi inferiori ai prezzi, altrimenti le imprese chiudono, e poiché non è vero che tutti i lavoratori sono produttivi nella stessa maniera, è perfettamente insensato decidere che tutti vanno pagati nella stessa maniera, perché questo che fa? Beh, o si sceglie un salario particolarmente basso, diciamo uguale alla produttività del meno produttivo del settore, ma allora i più produttivi vengono un po' derubati, sì, perché quell'extra che loro producono potrebbero mettersi in tasca nella forma di stipendio, se lo mette in tasca il datore di lavoro. Però mi scusi, io il salario minimo lo intendo tanto come tutti pagati allo stesso modo. No, sto parlando del contratto collettivo, ho sentito sostenere che il contratto collettivo di categoria è una bella cosa, e io sto cercando di spiegare proprio perché non lo sia, faccia danno ai lavoratori anzitutto, perché distrugge il lavoro e gli porta via dal reddito. Quindi, di nuovo, se il salario collettivo è particolarmente basso per permettere che tutte le imprese ci rimangano dentro, chi lavora in un'impresa particolarmente produttiva o chi è particolarmente capace, produttivo, attivo, ci perde. perché sì, in questa maniera ovviamente non porta a casa quello che altrimenti potrebbe. Viceversa, quando viene stabilito un po' troppo alto rispetto alla media delle imprese, i lavoratori delle imprese meno produttive perdono il posto, non lo vedono mai quel salario, perché se il contratto mi impone di pagare 100 e via nell'impresa più di 70 non riesco a produrre, allora mi conviene non assumere il lavoratore, lo lascerò a casa, eviterò la perdita e questo riceverà un salario di zero. Quindi lei cosa vorrebbe? Nessun contratto collettivo, ma contrattazione privata, diciamo, contrattazione singola. Ma privata, ma credo, guardi, a me va perfettamente bene che la contrattazione venga a livello aziendale. Io credo che azienda per azienda, impianto per impianto, impresa per impresa, i lavoratori si possono organizzare e contrattare, e siccome le situazioni sono diverse, in regioni diverse, in imprese diverse, si produce e si fanno cose diverse, ci sia la possibilità di contrattare con il datore di lavoro, con l'impresa, il trattamento salariale. E poi sì, francamente io credo che nell'economia nella quale siamo oggi sia anche molto importante lasciare la libertà per la contrattazione individuale, perché la contrattazione individuale è quella che permette al merito individuale di manifestarsi. Purtroppo nel nostro paese se ne vedono gli effetti di merito individuale, di produttività, di su questo sono perfettamente d'accordo. Però facciamo così, devo andare un attimo in pubblicità. Intanto voglio ringraziare Sergio Savoia che ci ha raccontato all'inizio il nostro punto di partenza era la questione svizzera, ma con Giovanni Alleva, candidato per lista Tsipras, e Michele Boldrin, capolista di Scelta Europea Nord-Est, continuiamo invece sulle questioni economiche tra poco. Anche voglio capire che cosa ne pensate delle ricette di Renzi, del governo, dei famosi 80 euro, se vedete tanti annunci e poca sostanza, e se invece la vostra ricetta è diversa, in che cosa diversa da quella che propone il Partito Democratico e il governo soprattutto. Tra poco, state con noi. 24 mattino. Allora, con Giovanni Alleva, candidato lista Tsipras, giuslavorista, ha fatto parte anche del collegio difensivo della FIOM nella causa contro la Fiat, e con Michele Boldrin di Scelte Europee, economista, stiamo discutendo insomma anche delle ricette economiche. Vorrei su questo dirottarvi. C'è da dire che qualcuno ci scrive via sms: ci vorrebbe uno stipendio massimo da fissare in Italia, altro che minimo, massimo. Non so, Boldrin, lei lo vorrebbe lo stipendio massimo, almeno nella pubblica amministrazione? Ma io non voglio stipendio massimo e stipendio minimo, non voglio fissare queste cose per legge. Beh, almeno nella pubblica amministrazione l'hanno messo il tetto. Ma neanche nella pubblica amministrazione, ma sbagliato anche quello, anche nella pubblica amministrazione occorre introdurre criteri di merito, licenziare chi non lavora, nella pubblica amministrazione bisogna cambiargli lo stato giuridico, devono smettere di essere fondamentalmente illicenziabili ed essere trattati giustamente come i lavoratori del settore privato, dopodiché chi fa bene gli si dà dei bei soldi e chi fa male gliene se ne va pochi oppure lo si manda a casa. Vediamo, magari il paese ricomincia a funzionare. Lei Alleva lo metterebbe uno stipendio massimo? Nella pubblica amministrazione è stato messo questo tetto a 240.000, ma anche nel privato uno stipendio massimo? Ma insomma, queste sono ricette che significano poco, adesso ne parlerò. Volevo aggiungere una cosa al mio discorso di prima. Il salario minimo garantito, che ha poco senso e nessun senso all'interno dei singoli paesi, lo avrebbe invece molto a livello europeo, perché a livello europeo abbiamo una concorrenza al ribasso che è all'origine delle delocalizzazioni, la quale potrebbe essere ben limitata da un salario minimo garantito. Pensiamo per esempio che ci sono paesi, i paesi dell'est e altri, in cui 300 euro è il salario minimo garantito. Una misura europea, diciamo, decorosa, limiterebbe il fatto che le aziende cannibalesca. Quanto ai salari minimi e ai salari massimi, guardi, lo stesso pubblico impiego ha per legge a tutt'oggi un criterio civile che è il criterio della contrattazione, che le parti sociali trovano i livelli esatti. Questa abolizione di tipo autoritario, ma di un autoritarismo tra l'altro ignorante, che è stato reintrodotto da Brunetta e adesso viene portato avanti da Renzi, per cui la contrattazione resta bloccata bloccata per legge, bella cosa civile, però ti regalo 80 euro, è esattamente un modo non di governare, mi perdoni, ma di sgovernare. Dice. Ma senz'altro, cioè, che cosa serve tutto questo? Serve in sostanza a togliere il rilievo alle parti sociali, sono manifestazioni di antipolitica. Di antipolitica, cioè alle parti sociali viene impedito di democraticamente rapportarsi. Anche quello che ho sentito prima, mi perdoni, il mio interlocutore, riguardante la contrattazione collettiva, ma bisogna conoscerle queste cose, sarà che io le buste paga le vedo tutti i giorni. Noi abbiamo tre livelli che non si contraddicono, il livello nazionale che ci dà l'invarianza salariale rispetto all'inflazione, il livello aziendale che ci consente di cogliere gli aumenti di produttività specifici e i super minimi. Quindi una contrattazione aziendale, lei dice, già c'è, ma si garantisce una base. Ma non andiamo a scoprire l'acqua calda, il merito. Ma basta guardare una busta paga, non c'è busta paga di lavoratore, impiegato o quadro o operaio che non abbia anche un super minimo individuale. Cioè, non... Quindi, no, ma è chiaro, lei dice il merito c'è già e la contrattazione a livello aziendale c'è già. Ci vogliono introdurre dei concetti assolutamente scontati e banali per uno scopo politico ben chiaro. Guardi, però, Alleva, già siccome ci segue sempre anche Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, che saluto su Twitter, Impresa Diretta, ci scrive, e vorrei girare questa considerazione a Boldrin: l'idea di salario minimo europeo di Alleva è una straordinaria ricetta per aumentare la disoccupazione nei paesi meno ricchi. Però Boldrin, vorrei capire, perché dice Alleva, se effettivamente i camionisti rumeni, per esempio, costano 300, 400, 500, non lo so, comunque uno stipendio assolutamente più basso rispetto a quelli italiani, molte imprese vanno a delocalizzare in Romania. Per lei è una ricetta da liberale che va bene così oppure crea un problema? No, guardi, ricette, non ci sono ricette. Io credo che sia perfettamente legittimo, infatti come giustamente ha osservato Carlo, la ricetta e il suggerimento di Alleva. Purtroppo crea solo disoccupazione, ma non solo in Romania, poi per riflesso la crea anche in Italia, esattamente nella maniera in cui i contratti collettivi in questi decenni hanno creato disoccupazione in varie parti d'Italia, in particolare nel sud. Se davvero quanto io ho affermato fosse così ovvio, così banale, io cascassi dal pero e non sapessi che ci sono i super minimi, eccetera, allora non vi sarebbe resistenza da parte sindacale, da parte delle burocrazie sindacali alla richiesta che la contrattazione si faccia tutta a livello aziendale ed individuale. Perché vede, il problema qual è? Il problema è che quella parte stabilita dal contratto collettivo nazionale, siccome si deve applicare a tutte le aziende, a tutti gli individui, quando è troppo alta, quando è troppo rigida, fa danno. Quindi il fatto che poi in cima ci si possa aggiungere una parte aziendale e in qualche raro caso una parte individuale. Però non crede che sia una tutela. È tutta decisa dai sindacati. Però Boldrin, non crede che sia anche una tutela collettiva, nel senso che di fronte alla debolezza del singolo. Il problema è che lei mi deve spiegare cos'è la tutela collettiva. No, ma nel senso che di fronte alla debolezza del singolo nella contrattazione aziendale magari non tutti sanno farsi valere, quindi una tutela collettiva come base è la parte da cui si parte per poi avere una contrattazione ulteriore. Ma vede, questo fa parte di una purtroppo subcultura che ha portato l'Italia a diventare un paese arretrato e sempre più arretrato, perché la cosiddetta debolezza del singolo, che è un concetto che faccio fatica spesso a capire, perché a me il singolo sembra né debole né forte, mi sembra la base da cui partire in ogni argomento contrattuale, la si risolve con la legislazione che garantisce diritti comuni, regole del gioco, proibisce la discriminazione, la punisce, eccetera, eccetera. Dopodiché sul posto di lavoro io credo che i singolo o gruppi di singoli organizzati, se vogliono organizzarsi a livello aziendale, non siano per nulla deboli, perché nell'interesse di ogni azienda, di ogni datore di lavoro, cercare di premiare chi fa bene, perché è nel proprio interesse tenerlo nell'azienda. Ripeto, questa idea che dobbiamo fare tutto collettivamente significa molto spesso che poi ci creiamo delle burocrazie sindacali le quali difendono o lavorano per difendere dei privilegi acquisiti e produrre poi quello che vediamo, specialmente nel settore pubblico, una tendenza a creare regole dove nessuno è responsabile, nessuno paga mai. Quindi guardi, quando è così, anche le persone più brave, anche le persone più capaci, anche le persone con le migliori intenzioni, sa cosa fanno? Tirano i remi in barca. Sì. Perché dico, c'è un livellamento verso il basso. Se lavoro duro non faccio nulla, non ricevo nessun premio. Se non faccio nulla, come quello accanto, nessuno mi punisce, ma cosa sono? Un pazzo suicida, una specie di madre Teresa di Calcutta che lavora gratis per ricevere nessun compenso. No. Faccio anch'io come tutti. E mi adeguo a livello al basso. Sentiamo le informazioni sul traffico e poi entriamo. Allora, le 49 minuti, sentirei Giuseppe che ci chiama da Pavia. Giuseppe da Pavia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Semplicemente secondo me la situazione si risolve smontando tutti i casini che hanno creato i politici, leggi su leggi che si contraddicono, è veramente ormai un ginepraio dove è impossibile capirci. Siamo un paese da terzo mondo. Troppe leggi, questo dice. Un dipendente non sa quant'è il suo stipendio, non è capace di fare il calcolo. È una cosa assurda. Troppe leggi, lei dice, questa è la questione. Vai, rimarrei da un altro Giuseppe in provincia di Udine. Buongiorno. Buongiorno, io sono il titolare di un'azienda di trasporti con 30 dipendenti, tutti italiani, tra l'altro. Sposo la teoria Boldrin, nel senso che la contrattazione dovrebbe essere solo aziendale, perché questo permetterebbe di contrattare un attimino i livelli di premio. Detto questo, i livelli di costo minimo sono già troppo elevati, l'avete detto voi, perché il raffronto con un camionista rumeno è penalizzante. Ma ove vi si dicesse, non puoi ridurre gli stipendi totali, perché altrimenti tu lo fai per guadagnare, io proporrei questo. Dati 100 lo stipendio lordo da dare ad ogni dipendente, io pagherei a tutti 90 e i 10 che avanzano li andrei a riparametrare su quelli che hanno più produttività. Vabbè, bisogna tagliare le tasse sul lavoro, però Giuseppe mi interessa la sua posizione. Cosa dice al professor Alleva, che invece dice un salario europeo minimo ci vorrebbe perché impedirebbe alle aziende per esempio andare a delocalizzare in Romania? Lei ci ha mai pensato, è mai stato tentato? Allora, no. Però le dico, se questo fosse fatto, io ci guadagnerei come azienda italiana, perché i competitors sarebbero meno competitors. Detto questo, però, ha anche ragione il professor Stagnaro quando dice che in quei paesi ci sarebbe più disoccupazione. Sicuramente in Italia avremo più occupazione, perché quelli che oggi perdono il lavoro perché lo perdono, perché il rumeno corre a prezzi più bassi, domani non lo perderebbero, quindi saremmo meglio noi italiani e peggio i rumeni, i lituani, eccetera. Io sarei felice, però ripeto, detto questo, non sarebbero più felici le dici in Romania, cioè favorirebbe la disoccupazione in quei paesi. Allora, prima di tornare da Alleva su questo, siccome Alleva qualcosa l'ha detto sugli 80 euro, è stata molto critico. Boldrin, lei è sugli 80 euro e quello che vede del movimento delle iniziative economiche del governo, cosa le piace, cosa no, cosa farebbe lei? Ma io sugli 80 euro ho detto e ridetto che è una cosa orrenda, per una semplicissima ragione: io credo che questo paese bisogna tagliare le tasse, e le tasse sul lavoro e sulle imprese in particolare, perché distruggono il lavoro e impediscono alla gente di portare a casa ciò che poi produce. Ora, anzitutto ritengo che per tagliare le tasse occorre tagliare le spese, non c'è niente di chiaro nei piani del governo Renzi di tagliare le spese in maniera sostanziale e duratura. E poi soprattutto credo che le riforme fiscali si fanno in maniera seria, non per guadagnare voti in modo propagandistico, punto. Quindi le riforme fiscali si dovrebbero fare riformando il codice fiscale per tutti, riducendo l'imposizione marginale per tutti, e permettendo così di creare gli incentivi adeguati. Farlo per una categoria particolare in questa maniera rigogolata, adesso qui alla radio entrare in dettagli non possiamo, ma chiunque conosca il contenuto della norma sa che il risultato è stato ottenuto più o meno in una maniera super complicata, alterando le tabelle fiscali in modo in realtà dannoso. E poi bisogna anche dire la verità, bisogna evitare di parlare gli 80 euro, capisce, perché è propaganda, non sono gli 80 euro, sono i 15 euro, forse i 10 per alcuni, meno 10, perché assieme alle riduzioni di cui si parla ci sono eliminazioni di detrazioni d'imposta e altre cose che per moltissimi implicano un aumento della tassazione e per altri al netto aumenta, implicano una riduzione delle imposte ben inferiore. Insomma, diciamo che sugli 80 euro dipende dalla condizione mi sembra, del lavoratore, se è sposato o meno, se la consorte lavora o meno, eccetera. Mi sembra che ci sia una critica bipartisan, almeno dei nostri due candidati qui presenti. Però a Leva le chiederei questo: tagliare le tasse e tagliare la spesa pubblica. Cominciamo da tagliare la spesa pubblica. È una ricetta buona, perché a sinistra vi si accusa invece di essere il partito della spesa pubblica. Ma la spesa pubblica è una nozione troppo ampia, c'è una spesa pubblica che non va assolutamente tagliata. Quale? Che deve essere invece incrementata, quella che riguarda le condizioni delle famiglie e dei singoli. Bisogna addirittura introdurre, ne siamo sicuri, un salario di cittadinanza. C'è una spesa pubblica. Un salario di cittadinanza. Sì, ma cioè noi non possiamo continuare a vivere con milioni di persone che sono non più, ma per modo di cittadinanza, di dire, cioè, mi scusi, ma sono alla fame, cioè, ma la vogliamo dire questa cosa qui, che ci sono persone che vivono con, che non vivono con 400 capito, euro. Ma scusi, tu professore, però è sempre tutto deve essere compatibile con i conti pubblici, no? Un salario di cittadinanza, voi avete fatto un calcolo di quanto costerebbe allo Stato? Miliardi di evasione fiscale anno, no, perché questo non è un quindi dato recuperare che l'evasione tenerlo, che per darlo al salario di cittadinanza. No, bisogna fare il prelievo da dove ci sono, è una grossa ridistribuzione, ma senza voler espropriare e uccidere nessuno. No, chi non paga le tasse le paghi, e quelli che hanno, diciamo, delle posizioni patrimoniali enormi senza morire possono benissimo avere una risposta. Vabbè, su questo Boldrin ho un minuto, però so che è un argomento che l'accalora molto, insomma, sarà No, non mi accaloro per niente, io mi diverto a sentire sempre queste proposte, tutti si scordano, quindi anche il mio interlocutore si scorda che il reddito bisogna produrlo prima di distribuirlo, e quando la gente la si tassa troppo, sai cosa fa? Se ne va o smette di lavorare, che è quello che vediamo. Quindi prima di porsi il problema di redistribuire, io mi pongo il problema di produrre, mi pongo il problema di trovare e creare posti di lavoro, mi pongo il problema di creare incentivi perché la gente lavori e produca di più. Poi la redistribuzione già si fa in parte, in Italia si fa malissimo, ma è un argomento qui troppo lungo per il minuto che ho. Non c'ho niente contro una distribuzione saggia e ben pensata, ma questa ossessione a pensare che i salari bassi si risolvano a botte di redistribuzione di patrimoniali è una sproposito, una bestemmia economica. Una sola osservazione, sì, anche piccola, all'amico trasportatore, sono d'accordo con lui, però noti che in realtà impedire al rumeno di lavorare, di competere a basso costo, offrendo servizi di trasporto economici qui in Italia, in realtà distrugge il lavoro anche qui in Italia, perché i servizi di trasporto sono una componente fra le altre degli input, dei fattori di lavoro che si usano per produrre altre cose. Però si fermi qui Boldrin, altrimenti sforo e poi dobbiamo sfumare. Vi ringrazio, Giovanni Alleva, candidato per la lista Tsipras, Michele Boldrin, capolista di Scelta Europea del Nord-Est, e noi ci sentiamo domattina alle 6.30.